Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Oggi all'esame del CSM le accuse di Berlusconi ai magistrati. Napolitano chiede equilibrio. Il PIL italiano scende del 6% nel secondo trimestre. Il dato è tra i peggiori d'Europa. Mezzi sporchi, abbiamo paura dell'influenza e gli autisti dei bus di Napoli bloccano il deposito. Il racket torna all'attacco a Gela e i proprietari di un concessionario d'auto decidono di chiudere. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Benvenuti all'edizione delle 13 del nostro giornale radio. Prima di parlare di politica e delle parole del Presidente della Repubblica, una notizia che è appena stata battuta dalle agenzie e che riguarda i funerali di Mike Bongiorno, morto martedì a Monte Carlo all'età di 85 anni. Ebbene, saranno funerali di Stato e si svolgeranno sabato mattina alle ore 10 nel Duomo di Milano. La notizia è stata confermata dalla prefettura. E siamo appunto alla politica con il richiamo, la lettera del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al CSM. Lavorate con serenità, è questo l'invito rivolto con una lettera dal Presidente della Repubblica Napolitano ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura impegnati oggi con il dibattito sulle pratiche a tutela dei magistrati oggetto di accuse da parte di Silvio Berlusconi. Nella missiva in realtà non c'è un riferimento esplicito alle pratiche che riguardano il Premier, ma in generale ai 7 fascicoli che oggi saranno all'esame del Plenum, 4 dei quali riguardano però proprio le esternazioni di Berlusconi contro la magistratura, in particolare Napolitano. Napolitano ribadisce l'esigenza di fare un uso responsabile e prudente dell'istituto delle pratiche a tutela dei magistrati, che ora, dopo una modifica dei regolamenti, si giustifica solo quando è indispensabile per difendere la credibilità dell'istituzione giudiziaria da attacchi particolarmente gravi. Apprezzamento per la lettera di Napolitano arriva dal portavoce del PDL Capezzone, che parla di richiesta ineccepibile da parte del capo dello Stato. Il CSM è stato sempre equilibrato, Berlusconi no, replica invece dall'opposizione. Posizione l'Italia dei Valori. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al centro di queste dichiarazioni ci sono anche le parole del Presidente del Consiglio che riguardano la riapertura delle indagini per la strage di Via D'Amelio. Da segnalare su questo che tra l'altro è appena arrivato un comunicato dei cosiddetti consiglieri laici del centrosinistra al CSM che chiedono che il CSM apra una pratica a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati della funzione giudiziaria dopo che il Presidente del Consiglio ha definito atti di follia e inutili sprechi finanziari delicate inchieste giudiziarie su stragi e altri gravissimi reati che hanno ferito la Repubblica. Ma cosa c'è al centro di tutto questo? Lo chiediamo al nostro Daniele Biacchessi. Daniele. Sì, ci sono soprattutto dei verbali di interrogatorio. Uno di questi, certamente il più importante, è quello che riguarda il figlio di Ciancimino. Ciancimino, ricordo, è stato per molti anni non solo il sindaco di Palermo, ma anche la cinghia, vera cinghia di trasmissione tra la mafia e il potere politico. Ora Ciancimino Junior dice a verbale che ad un certo punto suo padre non venne più considerato un cavallo su cui puntare, visto che voleva diventare l'uomo che gestiva gli appalti, la politica, ed era convinto di far arrestare Totorina. Certo, prepara il terreno per una politica non stragista, ma viene scaricato ed era molto rammaricato di essere stato sostituito. Dice Ciancimino Junior che è stato sostituito da Marcello Delluti, che prese il suo posto perché garantiva certi equilibri. Mio padre intuiva che lui era l'uomo della continuità grazie ai rapporti consolidati da amicizie pregresse. Su questo, oggi Libero titola, ci risiamo un siluro a Dell'Utri, le accuse dei pentiti, dove sono riportati alcuni pezzi di questo lungo verbale di Ciancimino, mentre Dell'Utri si difende e dice che l'offensiva d'autunno è solo iniziata. Non c'è solo il verbale di Ciancimino, ma anche le dichiarazioni del pentito Spatuzza, sulle quali c'è naturalmente, come in tutti questi verbali, quali ci sarebbe un segreto istruttorio che di giorno in giorno, come vedete, viene infranto. E grazie al nostro Daniele Biacchese. C'è un'altra questione che incrocia politica e magistratura, e sono le inchieste di Bari, che da una parte coinvolgono lo stesso Silvio Berlusconi e dall'altra parte alcuni esponenti del PD e anche del PDL. Sentiamo. Ci sarebbero 3 o 4 parlamentari coinvolti nelle indagini della Procura di Bari sulla corruzione nella sanità pugliese. Lo sostiene il Corriere della Sera, secondo il quale il particolare sarebbe emerso nel corso dell'audizione di 4 PM baresi davanti alla commissione d'inchiesta del Senato sull'efficienza e l'efficacia del Servizio Sanitario Nazionale, che 2 giorni fa ha iniziato il suo viaggio in giro per l'Italia partendo proprio dalla Puglia. Intanto dai verbali di interrogatorio di Giampaolo Tarantini spuntano altri particolari sull'estate 2008 vissuta saltando da una festa all'altra. Droga e sesso il comune denominatore degli incontri VIP. In una telefonata intercettata dalla magistratura e pubblicata da Repubblica, Tarantini avrebbe detto a Berlusconi: c'è una bionda che non puoi perderti. In tutto sarebbero 30 le donne, tra cui alcune escort, invitate a 18 feste organizzate nelle residenze private del premier. Ne parla Tarantini nell'interrogatorio, coinvolti anche esponenti del centro-sinistra pugliese. Del resto l'attività dell'imprenditore barese, secondo la procura, era bipartisan. A mettere ordine nelle 6 inchieste in cui gli scandali della sanità si mescolano con i capitoli escort e cocaina ci sta pensando Antonio Laudati, il procuratore capo che si è appena insediato. Giovanni Longo, GR24, Il Sole 24 Ore, Bari. Questo è il quadro delle tensioni politiche che stanno attraversando il paese in questo momento. Nel frattempo però alla Maddalena sta per iniziare, è iniziato, forse sta per finire, lo chiediamo a Gerardo Pelosi, il vertice tra Italia e Spagna. Gerardo, tu ti trovi là, c'è anche naturalmente il Presidente del Consiglio, che cosa sta emergendo? La riunione, il vertice bilaterale italo-spagnolo si sta concludendo adesso con la riunione plenaria qui nella struttura dell'ex arsenale della Marina Militare, dove era stato costruito in pochi mesi la struttura che avrebbe dovuto ospitare il G8, e Berlusconi ha chiesto al premier spagnolo José Luis Zapatero di venire proprio qui per inaugurare la prima riunione in questa nuova struttura. Si è parlato di immigrazione, di dare una risposta europea ai problemi della pressione migratoria dalle sponde sud del Mediterraneo e sostenere in maniera ancora più forte questa forte integrazione economica tra Italia e Spagna, soprattutto nel settore della telefonia e dell'energia. Enel con Endesa è il più grande investitore in Spagna e la Telefonica ha praticamente una quota di partecipazione nella Telecom, e quindi c'è questa doppia integrazione in questi due settori. Ma si è parlato anche di difesa, di operazione di pace, di collaborazione industriale nel settore della difesa, appunto sull'acquisto possibile di veicoli blindati Freccia della Iveco e di 10 elicotteri Augusta Westland del gruppo Finmeccanica AW101. Sull'economia i ministri dell'economia Tremonti e il suo omologo hanno parlato di come superare la crisi finanziaria in vista anche del G20 di Pittsburgh, e per la prima volta sono riunite le due Confindustrie, quella italiana guidata da Emma Mercegaglia e la COE spagnola guidata da Gerardo Diaz Ferran, alla presenza di alcuni rappresentanti di imprese dei due paesi. Si è discusso di situazione economica, di infrastrutture, di energia e ambiente, di innovazione e di Europa. Dal 1 gennaio 2010 la Spagna guiderà l'Unione Europea, è un appuntamento importante e l'Italia intende sostenere il piano per la strategia europea e la crescita del lavoro, che si sostituirà alla strategia di Lisbona dal 2010. Berlusconi non ha ancora parlato con i giornalisti e quindi non ha potuto rispondere alle critiche sui verbali di Bari, sull'inchiesta per le escort. Si è limitato a dire alcune battute sui giornalisti. Voi siete la parte buona dell'informazione, ha detto, rivolto ad alcuni telecineoperatori, ma parlerò più tardi con i giornalisti della Carta Stampata stampata la parte cattiva dell'informazione. Ha aggiustato il nodo della cravatta a Zapatero per scherzo e a Tremonti, con Tremonti si è un po' rammaricato del suo abito, uno spezzato invece di un abito completo. Dalla Maddalena è tutto. E grazie Gerardo Pelosi, ci accennavi al ministro Tremonti che guarderà probabilmente con attenzione ai dati che sono stati diffusi oggi dall'Istat. Nel secondo trimestre del 2009 il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 6% nei confronti del secondo trimestre del 2008. L'Istat conferma così la stima preliminare diffusa il 7 agosto, dato peggiore di quello della media dei paesi dell'euro, dove il calo è stato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente del 4,7% rispetto al secondo trimestre del 2008. Buongiorno ad Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera ed economista. Buongiorno, il dato riportato era ben noto e tuttavia va letto in modo più dettagliato, rilevando due elementi almeno. Innanzitutto il rallentamento della caduta, che è passata da un meno 2,7 a un meno 0,5 trimestre su trimestre, quindi il dato congiunturale dimostra che in Italia ci stiamo avviando alla conclusione del ciclo di rallentamento. In secondo luogo, e questo è ancora più importante, il fatto che la spesa delle famiglie residenti italiane ha ricominciato a salire. Un più 0,3 del secondo trimestre 2009 sul primo trimestre 2009. Si tenga conto che questo dato è analogo a quello di Francia, di Germania e di Austria, mentre invece paesi come l'Inghilterra e l'Olanda hanno un vero e proprio crollo dei consumi ancora nel secondo trimestre. Dunque ci sono luci ed ombre in questo dato. La mia impressione è che noi siamo sostanzialmente allineati con il grande paese manifatturiero della Germania e che in circa largo la nostra ripresa dipenderà molto da quella delle esportazioni. E grazie ad Alberto Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano ed editorialista del Corriere della Sera, per essere stato con noi e per averci aiutato a chiarire questo dato. Restiamo in tema di economia e parliamo della riforma sanitaria del presidente americano Barack Obama, che è stata presentata questa notte al congresso. La cronaca di chi ha seguito questa seduta movimentata del congresso, il corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ispirato, mostrando la grinta del leader a chi lo accusava di essere troppo blando fino a poche ore fa, Barack Obama ha parlato al Congresso e ha chiesto ieri notte all'America di seguirlo lungo la strada di una storica riforma sanitaria. Toni retorici dannata, quelli che ha usato ieri il presidente americano. Ha detto ad esempio: non sono il primo presidente che si fa carico della riforma sanitaria, ma sono determinato ad essere l'ultimo. Ma Obama non si è limitato alla retorica, il suo è stato un intervento anche piuttosto dettagliato sul piano tecnico. Ha formulato tre obiettivi: più sicurezza e stabilità per coloro che già hanno l'assicurazione sanitaria, una garanzia dunque per quella gran parte degli americani, 180 milioni, che temono che da una riforma potranno soffrire. Ha promesso assistenza a chi non ce l'ha e ha promesso di frenare l'aumento dei costi sanitari per le famiglie, le aziende e il governo. Infine, un appello e il ricordo a Ted Kennedy, il senatore che più di ogni altro ha contribuito a portare in avanti la causa della riforma sanitaria in America. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. E siamo alla Mostra del Cinema di Venezia con la nostra inviata Marta Cagnola. Che giornata è, Marta? E oggi è la giornata dell'ultimo film italiano in concorso, che è La doppia ora di Giuseppe Capotondi, appunto il quarto e ultimo film in concorso alla Mostra del Cinema. La protagonista è russa, Ksenia Rappaport, l'abbiamo vista nella Sconosciuta di Giuseppe Tornatore, e Filippo Tini, che era appena stato a Cannes, protagonista di Vincere di Marco Bellocchio. È un thriller, diciamolo subito, non si fanno più film genere in Italia, invece questa volta sì. Ieri Placido aveva tuonato contro il fatto che in Italia si fanno solo commedie, invece abbiamo visto un thriller che è appunto La doppia ora. Per quanto riguarda invece i film italiani, un altro film italiano è stato presentato invece alla Settimana Internazionale della Critica, il protagonista è sempre straniero, è somalo, si chiama Aman, ed è un giovane somalo che diventa amico di un pugile in disarmo, Teodoro, interpretato da Valerio Mastandrea. È la trama di Good Morning Aman di Claudio Noce, lungometraggio d'esordio di Claudio Noce con Valerio Mastandrea, ascoltiamolo. Mi sembra che ci sia sotto una riflessione molto intensa sull'argomento dell'integrazione, perché mette a confronto due solitudini e due non integrati molto lontani, no? Un italiano è un figlio di emigrati, quindi un italiano, un immigrato di seconda generazione. Le 13:19 minuti e 32 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della lettera di Giorgio Napolitano al CSM che oggi esamina le accuse di Berlusconi ai magistrati, abbiamo parlato del prodotto interno lordo italiano sceso del 6% nel secondo trimestre e anche della riforma sanitaria di Barack Obama. Adesso andiamo a Napoli. Abbiamo sentito adesso le informazioni sulla viabilità dalle autostrade, qualche difficoltà c'è anche a Napoli oggi per un problema che riguarda il trasporto pubblico. Che cosa è successo questa mattina? Lo chiediamo al nostro Enzo Danna. Buongiorno Enzo. Sì, buongiorno. Gli autisti dell'azienda napoletana di mobilità hanno bloccato l'uscita degli autobus dal deposito di Via Nazionale delle Puglie, il più importante, il più grande della città, per protestare contro la mancata pulizia dei mezzi. A indire la manifestazione il sindacato autonomo Faisa Cisal, che chiede maggiori garanzie contro il rischio di contagio dell'influenza. Pesanti, pesantissime le ripercussioni sul sistema di trasporto della città, ferma praticamente la maggioranza degli autobus che ogni giorno circola a Napoli. Da questo deposito escono infatti oltre 200 autobus che coprono ben 40 linee. Di fronte alla protesta di questa mattina l'azienda fa sapere che la pulizia dei pullman avviene quotidianamente e ha convocato il sindacato per discutere del problema. Noi abbiamo sentito il segretario provinciale della Faisa Cisal di Napoli, Vincenzo Balzano. Se le macchine non vengono disinfettate in nessun modo, nonostante ci sia un capitolato formato con l'azienda appaltatrice e con la nostra azienda, io do colpa alla nostra azienda, ai nostri dirigenti aziendali che non fanno rispettare il capitolato, in quanto disinfettazione ogni giorno come da capitolato, non lo fanno assolutamente. La protesta andrà avanti nei prossimi giorni? Tutti i giorni, tutti i mesi, finché non si risolve il problema. Noi da qua usciremo solo quando le macchine sono efficientemente pulite, disinfettate e devono odorare di pulizia. E poco fa c'è stato l'intervento di un ispettore della Digos che ha chiesto di riprendere il servizio. Alcuni mezzi sono stati ripuliti e disinfettati in tutta fretta e sono usciti dal deposito. È tutto da Napoli, vi restituisco la linea. Grazie Enzo Dana, noi restiamo al sud ma ci spostiamo in Sicilia per parlare di una storia di racket, perché ieri notte in un concessionario di moto di Orazio e Lino Sauna, due fratelli di Gela, sono state bruciate 10 moto ed è stato dato fuoco al magazzino. 10 giorni prima lo stesso concessionario era stato incendiato in un'altra ala ed erano andati in fumo magazzino, gazebo, deposito, pneumatici di ricambio. Dicono che il racket voglia far capire ai commercianti di Gela che bisogna piegare la testa e pagare il pizzo. Intanto Orazio e Lino hanno deciso di chiudere, lo ha raccontato lo stesso Orazio Sauna al microfono della nostra Cristina Carpinelli. Non me lo so spiegare. Non c'è stata nessuna richiesta. Qualcuno dice che volevano dare un segno agli altri commercianti, dire ne affossiamo uno perché sì, tutti gli altri. Tante sono le ipotesi. Senta, voi adesso cosa fate? Chiudete, tenete aperto, cosa volete fare? Sì, comunque c'è questa intenzione. Di chiudere? Sì, sì. Perché non ce la fate più? Ma sì, perché se c'è il terzo poi ci distruggono completamente e poi attualmente non c'è né l'umore né la volontà e non possiamo lavorare in tutti i sensi, perché c'è ancora, abbiamo tanti problemi da risolvere adesso. E non vi potete appoggiare alle autorità? Non vi possono sostenere, aiutare? Aiutare come? Se voi chiudete, il segnale è brutto, no? C'è da dare anche agli altri. Sì, ma e se non possiamo andare avanti, come dobbiamo fare? C'è il rischio della vita, c'è il rischio di qualcosa altro di peggio. E ora parliamo del nostro sondaggio che oggi riguardava l'evasione fiscale. Come tutte le mattine ne parliamo in bianco o nero alle 8.30. Ecco i risultati. E cosa migliore che i piccoli o i piccolissimi, pur di non soccombere, evadano le tasse, è cosa migliore che chiudono bottega. Il presidente della Camera di Commercio di Rimini, Manlio Maggioli, ha lanciato un bel sasso nello stagno. Per carità, dice, pagare le tasse è bello, fa sentire con la coscienza a posto, ma se un'impresa non ce la fa a reggere la pressione fiscale, che deve fare? Chiudere oppure evadere? Bella domanda che è diventata il nostro sondaggio di oggi e che ha visto gli ascoltatori spaccarsi in due. Il 52% ha detto no, bisogna pagare le tasse sempre e comunque. Eppure lo stesso Maggioli insiste. Se davvero in alcuni casi per sopravvivere occorre trascurare il fisco, penso che sia un'alternativa, non è l'alternativa peggiore, piuttosto che soccombere, è bene questo. Domani Bianco o Nero torna alle 8.30 e per votare basta venire a trovarci su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima di passare allo sport, una storia che arriva dalla Russia. Arcipelago Gulag diventa lettura obbligatoria nelle scuole superiori da novembre. Pronta una versione ridotta curata dalla vedova. Un'opera monumentale in cui il dovere di documentare l'universo concentrazionario prende il sopravvento sull'opera letteraria. L'arcipelago Gulag di Alexander Solzhenitsyn, Nobel per la letteratura nel 70, esule fino al 94, viene ora incluso nei testi scolastici russi per decisione del ministro Andrei Fursenko. Imporrà a milioni di studenti e ai loro insegnanti di riflettere sul calvario dei prigionieri confinati e spesso dimenticati nelle aree più remote del paese. L'autore stesso sperimentò l'arcipelago nell'immediato dopoguerra, ma non ne fu piegato. Nel 61, con Ivan Denisovic, scagliò il primo atto di accusa diretto al sistema sovietico, proprio mentre raccoglieva la documentazione per il suo testo più famoso. Per rendere praticabile l'impresa, i 7 volumi del testo originale verranno condensati in un'edizione scolastica curata dalla vedova Natalia. La scolarizzazione dell'opera può essere un'operazione di grande valore sociale, soprattutto se il testo non sarà trattato solo come un documento storico. La riflessione sull'arcipelago Gulag, a volte affogata in una valanga di documenti che allora servivano a provare l'esistenza stesso del sistema, mette infatti in luce la banalità del male, il male totalitario cui migliaia di russi hanno contribuito. Una lezione universale che ora tocca Solzhenitsyn, ma che richiama Levi e Bassani in chiave italiana e che riguarda tutti, proprio in questi giorni che per altre questioni si parla tanto di vaccini. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. E siamo allo sport, iniziando dal calcio. Finalmente bella e vincente l'Italia di Marcello Lippi ieri sera a Torino. 2-0 per gli azzurri contro la Bulgaria, gol di Grosso e Iaquinta. Ora l'Italia basta un pari nella sfida di Dublino del 10 ottobre contro l'Irlanda di Trapattoni per qualificarsi a Sudafrica 2010. Convincente la prova del giovane Marchisio, del bianconero Marchisio, all'esordio in una gara ufficiale con la maglia azzurra. Sentiamolo intervistato dal nostro inviato Massimo Di Scienza. È stato bellissimo, anche quando sono uscito il pubblico di Torino mi ha sempre trattato bene, diciamo così, anche con la Juventus ho sempre avuto loro al mio fianco e poi sono contento sicuramente per la squadra. Era una partita che volevamo preparare già bene dopo la Georgia, l'abbiamo fatto bene subito il primo tempo giocando veramente un ottimo calcio, si è visto anche il secondo gol, secondo me è stato veramente bello. Poi il secondo tempo abbiamo sofferto un po', abbiamo cambiato modulo, però la forza di una grande squadra è anche quella. Può aiutare il fatto di essere già un blocco già formato, 7 Juventini in campo dal primo minuto? Beh, per me è sicuramente un vantaggio, nel senso che comunque entrare in un gruppo come la nazionale italiana che è campione del mondo, ci sono grandi campioni, però avere tanti compagni di club insieme con me mi ha sicuramente aiutato già nella prima amichevole con la Svizzera e in questo primo ritiro. In chiusura la Formula 1, domani prime prove libere, domenica la gara, la Ferrari che fa esordire Fisichella come vice massa cerca la vittoria soprattutto con Raikkonen, vicino però al divorzio con Maranello. Con la rossa è stato campione del mondo, è il pilota che ha conquistato più punti negli ultimi 5 Gran Premi. In Belgio ha regalato alla Ferrari la prima vittoria stagionale, davanti proprio a quel Fisichella poi diventato in un Amen suo nuovo compagno di squadra. Ma quello di domenica sarà quasi certamente l'ultimo Gran Premio di Kimi Raikkonen al volante del cavallino rampante. Troppo incostante il talento del finlandese, scarsa la sua capacità di scaldare pubblico e media, pesante il contratto firmato da quell'istituto di credito spagnolo, nuovo sponsor della Ferrari, e che ha spinto parecchio per vedere al volante della rossa il bicampione del mondo iberico Fernando Alonso. E allora Raikkonen è pronto al passo d'addio, ma prima vuole lasciare il segno. Proprio a Monza 3 anni fa venne incoronato erede in Ferrari di un certo Michael Schumacher, che annunciava in lacrime il ritiro dopo aver vinto il Gran Premio proprio davanti a Kimi. E i campioni veri, si sa, hanno orgoglio da vendere e memoria di ferro. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Filippo Aureggi. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.